parlando? Franco, sono Gianni. Fai un passaggio? Franco, sì, Franco, capito. Guarda, è troppo. Io direi bene, un po' anche troppo forte la notificazione. Abbassa un po'. Guarda, adesso? Bene, segnale oltre 9.30. Cavagava, va bene. Io ho un problema nel Galaxy, non lo so cosa sia. Mi fischia, mi innesca, non so cosa sia. Se è dovuto al fulmine che ha fatto e mi ha fatto due, che cosa? Non so, sento un po' di alternata, sento, cosa è? Ma questo qua è perché è un apparecchio vecchiaia, dai. Questo qui è di quegli apparecchi Ruiz. Un po' di alternata la c'erano sempre questi apparecchi. Comunque va bene, dai. E l'antenna l'hai recuperata? No, l'ho messa nuova. E cosa hai messo? Super Lem. C'è una bella bestia con l'antenna, Cosa? Una bella bestia. Ehi, l'hai vista? No, la conosco, diciamo, come antenna, dai, l'ho vista su internet. Ascolta, non si può riparare l'altra? Sì che si può riparare. Abbiamo già beccato i pezzi tutto quanto. C'era uno che ce l'aveva rotta, c'era quei pezzi di buoni, li abbiamo recuperati. Ma ti stavo dicendo, quella lì c'ha tutta la parte di sotto in acciaio, cazzo, no, non è come ti lamanto, è come la mantova, però c'ha tutte le viti in acciaio, la parte di sotto in acciaio, e mi ha entusiasmato perché ho guardato i DB di guadagno, ho fatto le tiene 3.000. Ma voglia, ce n'è per i maialetti, come si suol dire, per i porci. No, va bene, ecco, io vabbè, non ricordo il vecchio segnale, com'era con la... Dovresti chiedere a qualcuno di più lontano, hai già chiesto qualche QRK? Cosa fa? Hai chiesto qualche controllo alla distanza per vedere la differenza? Sono finito all'una e passa di piazzare. Poi devi provare anche a parità di apparato, adesso te ne stai usando un altro. Comunque, per me va bene, la radio è sempre... Puoi abbassare ancora? La sento molto amplificata ancora. Sì, perché siamo vicini, fra. Adesso ne provo un altro di apparecchio, là. Dai, sono qua, dai. Anch'io faccio la commissione, ma roba di 2 minuti. Fra, guarda con questo. Stai un po' iniziando a fischiare, a innescare. Perché praticamente... Io non capisco perché. C'hai un rientro, mi? Sì, c'avevo gli apparecchi accesi, dammi il tempo. C'era un rientro da qualche parte. Prova. Guarda, così ti sto usando l'altro, guarda, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ora? Non è chiarissima la radio, non è chiarissima. Sembra che gli manchi qualcosa per essere pulita. Prova così, guarda. No, così c'è l'eco, non si capisce nulla. Non è chiaro, va. 1 e 1 di stazionario c'ho qua, nemmeno 1 e 1. Abbassa l'eco. Qua se abbassi l'eco abbassa anche la radio, sono insieme. No, la radio è forte, è che è troppo, rimomba troppo. Vabbè, l'interessante è che adesso sia chiaro, va. Lo stazionario sono 1 e 1, sto guardando, ma così muovo. No, sembra che sia proprio un... non so, che tenga da strappare appena, quando attacchi un po' di potenza che inizia leggermente a saturare appena, ma proprio impercettibile, proprio per essere pignoli. Adesso sei, diciamo, liscio? Sempre liscio sono. Sembra che diciamo, l'effetto come quando agganci, mi. Non so cosa dirti. Sarà qualche spezzone, allora prova a cambiarli, dai. No, ho detto, guarda, proprio per essere pignoli, però non c'è nessun problema per ascoltarti, è chiara, magari perché siamo troppo vicini, non lo so. Questi controlli vanno chiesti un po' a distanza, però ripeto, non va male. Adesso attacco il Galaxy, guarda. Prova il Galaxy. No, innesca. No, non si capisce. Prova a cambiare il microfono, boh. E innesca lo stesso. Quindi non è questione di microfono, allora, dai. Si è spostata qualche cosa all'interno, qualche regolazione, boh. Sei a zero come Mike Gain, queste cose qua, sono tutte basse. Come? Prova a parlare. adesso non innesca, però la radio è molto bassa, eh. Non è bella, è bassa e neanche è bella. Non sei tu, capito? Io sono abituato a sentirti diversamente. No, siamo dentro una cisterna, mi. Praticamente. E ho difficoltà anche a volte a capire anche le parole, perché proprio è molto cupa. Invece tu ci vi benissimo, c'è la radio squillante, potente, chiara. Qualcosina è successo, perché si è cambiata così la modulazione, la radio. È un casino, io l'altro giorno, quando mi ricordo io la stacco, quindi, specialmente quando non ci sono in casa, e so che ci sono perturbazioni in zona, se mi ricordo la stacco, e la mia non è sul tetto, quindi non è che sia a rischio, però... No, adesso va innescato invece. Rimetti la pelle che avevi prima, come si chiama? Il Rovic, che almeno ti ascoltavo meglio. Ammazza che stai fischiando. Stavo spegnendo tutto. C'è una parecchia accesa. Questa va benissimo, io lascerei questa. Rimane solo il problema della leggera alternata, ma perché siamo vicini, qualcuno da lontano neanche ti sente. Ascolta, io adesso devo scendere in campagna in macchina, se vuoi ti faccio qualche prova in macchina, in movimento. Falla, non c'è problema, dai, vediamo un po'. Sì, vediamo se mi accompagni fino, in teoria, dove ti faccio, perché sono, insomma, zona, verso Patamona, dai, Marchetto, devo andare lì. Alla grande, fra. Dovete coprirla tranquillamente, dai, dai, a dopo. No, chiamami. Eia. Gianni? Sì, fra, ci sono. Aspetta un po' qua. Schiaccia a vedere. Prova. Passi oltre i 9:10, mi sa, in macchina, eh. E dove sei? E praticamente nel parcheggio sotto casa. Ah, è strano, basso. Basso arrivo? No, per me è basso 9:10, vicino a casa tua. Ora? Come stanno tutti i fatti? Vabbè, conta che questo Smith non è che sia molto... Siamo di manica larga, Questi Galaxy le riconosci che sono un po' avari. Guarda adesso come ti arrivo. Prova. Questo è 9:20, io ce l'ho molto defilato l'apparecchio, ce l'ho nel lato passeggero. Però la radio è forte, Questo va bene, adesso proviamo l'altro. Ho fatto a cambiargli la spina e metterlo dall'altra parte, vediamo un po' se è quella. Sì, la radio è forte, per me, ripeto, puoi anche abbassare. No, aspetta, devo provare il gas. Prova. Io intanto sono già in movimento. Niente. C'è un problema. Niente, è proprio incomprensibile. Adesso come va? Beh, adesso bene, la stessa radio è no. Quindi è un problema di radio, dai, è da resettare quella radio, da verificare tutti i parametri. Vabbè, dai. Probabilmente ha fatto Brescia quel cavolo di fulmini che ci sono stati. Ah, non è detto, ma si è spostata qualche cosa. Si era bruciata qualche piccola componente da cambiare, no? Una fesseria magari, che la partenza te la dà, giusto? Scappa. E qui c'è stato un problema di modulazione, di qualcosa, della parte audio, dai. Falsi sul modulatore. Adesso hai fischiato? Sì, perché era acceso il galax. Invece la ricevere riceve bene, giusto? Cosa? Sto parlando da lontano io perché non arrivo al filo qua. Devo fare questa prolunga mi devo fare. E dico, la ricevere invece riceve bene. Se riceve, insomma, c'è poco QRM, è strano. Aspetta, lo devo controllare bene, dai. Beh, oggi è una giornata silenziosa, perlomeno. Anche se stamattina c'era un po' di propagazione. Io ero giù dalle parti di Olmedo e sentivo praticamente propagazione dall'est dell'Europa, dai. Buono. Lo sentivo, però non ho fatto neanche chiamata, intanto. No. Dove vado? Ero con... parato dalla macchina, liscio. Come questo che sto usando adesso, dai. A riposo, sì. Ho lavorato stamattina, ho fatto dalle 7 alle 2.20. Ciao, va bene, allora. Adesso andare rilassati o a sfaticare. Adesso c'è l'altro mio collega che mi ha dato il cambio, dai. Va via uno e arriva l'altro. Anzi, per un certo punto ci sovrapponiamo anche. No, dico... Praticamente, cosa stai andando, a sfaticare o a rilassarti in campagna? Ah, scusa, non avevo capito. No, a fare un po' di compagnia ai vecchietti, dai, poverini, che sono sempre soli lì. Non c'è, purtroppo non ce li ho a portata di mano, quindi devo viaggiare. Appena posso ti faccio un po' di compagnia, dai, un po' io, un po' mia sorella. Già va bene, andare, viene a godersi, sì che ci sono i genitori. Certo, poi hanno già 90 anni tutti e due quasi, anzi uno ce li ha passati. Invece mia madre ancora non ci è arrivata, dai. Però, un po' così, un po' vecchietti, un po' pacchiacciato, un po' di memoria persa, anzi un po' di memoria persa mio padre, poverino, non ricorda più nulla, però vediamo un po' che quando ci lascia, che ricordiamo. No, in campagna non puoi fare nulla che... Ancora è tutto sangue, cosa fai? Se entro a lavorare mi impantano e basta, faccio più danno che altro. Vabbè, dove sei arrivato? Adesso sono di fronte praticamente a... cos'è qua? Alla Ford, dai. Ah, ho capito. Stai passando dalla 131? Sto per rimettermi nella 131. Ti arrivo bene, sì, sicuramente. Andare. Ciao, va bene con l'antenna, si sente bene. Questa è un'altra, però questa me la sta facendo provare, come si chiama, Eugenio. Questa è un 20 cm più lunga di quella che avevo prima. Ero convinto che la 2001 fosse 2 metri, invece è 1,80, non so se lui è non è stata mai toccata. Quindi è probabile che ci siano vari modelli. Io pensavo fosse 2 metri. E rende di più questa qua per te. E allora, ho fatto delle prove e mi hanno detto di sì. Poi c'è da confermare, comunque è più grossa, come antenna è più stessa, è il doppio dell'altra. E poi, diciamo, sporge 20 cm in più rispetto all'altra, dalla capota, perché come sai io ce l'ho attaccata alla ruota di scorta, dai. Ho capito. Vabbè, lì la massa non è che la faccia bene, ma comunque bisogna accontentarsi. Purtroppo sopra non la posso mettere. Uno perché c'è il tetto apribile che andrebbe male anche a tratti con... Già non funziona bene, perché da quando si è un po' gonfiata una guarnizione, mi crea un'aderenza e a volte mi va in blocco il tettuccio, quindi lo uso poco e niente. Questi tettucci sono una rottura di balle e basta. Vabbè, comunque l'hai presa da Eugenio quella lì. Sì, ma la sta facendo provare Eugenio questa cosa, questa antenna qua. Sembra che vada meglio, la bobina è più grossa e si vede che come antenna è più importante, dai. Ma tra l'altro tutta l'antenna lo si da sotto? No, solo diciamo la... senza nessun attacco, anzi mi mancava anche la chiavetta, la farfallina per attaccarla, quindi l'ho tolta dalla mia visto che l'attacco è uguale. Ho capito, e vabbè dai, interessante migliorarsi. Credo che la mia sia della Sirio però, invece questa è della LEM, la LEM Turbo 2001. È la stessa che c'ho io, fra. La 2001? Esatto. Beh, prova a misurare la tua, se ti viene bene. Perché io ho convinto che fosse 2 metri, invece mettendo a fianco alla mia, che la mia è 1,60, sporge diciamo un palmo in più, in meno. E quella misura lì c'avevo, 2 metri o 1,80 m, forse 1,80 m. Ma se ti capita, se ti viene sotto mano un metro, così la vediamo se è normale, dai. Eia. Senza ripeto. Adesso sono alle punti, mi ascolti sempre bene? sempre. Anche io adesso, va bene, vediamo un po', fai una portante se riesco a vedere il segnale. E l'occhio è che si sta guidando la sciapera. Sì, credo, ne ha 9, ho un po' di queste vite che veramente si sta muovendo. Ah beh, certo. Sono belle perché passi dove vuoi senza fare danno. Subito un po', diciamo, dal vento. Io dai. Vabbè, fra dai, grazie per i controlli, ci sentiamo, dai. Adesso mi riposo un po' che sono stanco. Stamattina ti lavati sul tetto per fondo l'antenna. Da solo vedi? No, ho subito con una mano. No, ok, dai. Comunque, okay, ottimo, ottimo lavoro. Ci aggiorniamo alle prossime. Ciao caro, grazie a te anche per i controlli. Ciao, ciao fra, buona serata, dai. Grazie, tanto, ciao. Capito, chi aveva un altro nome la pizzeria? c'era sempre un bel di gente. Poi, guarda, è una persona squisita, perché mi ricordo che uno si è avvicinato e ha detto: "Oh, non c'ho soldi, non c'ho da mangiare, non è che mi puoi dare qualche cosa?" E ha detto: "Sto sì, frate, dimmi che cosa vuoi, ti do tutto quello che vuoi." No, tutto così, come me, ti dà il cuore, però se lo tradisci, scatto so cacchi tu, Ma no, perché che lo tradisci? Lui è una persona brava così. E quello già è vero qui. Aspetta un attimino che... Eccolo. Ecco. 1 e 1 c'ho di stazionari. 1 e 1. Poi quando c'è tempo passava dell'antenna. Tu ma poi su voci, la sera di mi hai detto che c'era un'antenna che si stava spezzando. E invece non era spezzata, era abbassata perché c'era il vento. E se mi si è rotta davvero, lo sai. Sì, ma quell'antenna lì lavora così, è come una canna da pesca, capito? Lavora in quella maniera lì, però non era rotta, mi si è rotta dopo con quel vento forte che ha fatto quella grandinata. Era truccata in due, era pezzolosa. Sì, ma hai fatto bene, però molta gente addirittura mi hanno suonato anche il campanello, quello di su. Mi ha detto: "Guarda che c'è l'antenna tutta piegata, non è che ti si rompe, cade giù." "No, no, non ti preoccupare, se si rompe c'è il cavo all'interno, non cade niente." E così era. Cosa? Vabbè. Cosa ti stavo dicendo, Cristian? La radio buona, eh? Ok, dai. Quando commuto, per dire, da una frequenza a un'altra, a volte succede che non scatta bene, se rimane una frequenza e l'altra, capito? Sicuramente come un mosso qualcosa dalle frequenze è andato a posto. Meglio così, dai. Non c'è di che. Ma già va bene, cos'è Milan con l'antenna? Con il croccio. Ah, la base magnetica c'hai. No, pensavo che fosse attaccata al tettuccio. Base magnetica, cioè perché non te l'ha attaccata direttamente? Che macchina c'hai adesso, Cristian? Sempre quella. Stai lavorando, sì. Meglio così, dai, meglio così. Cioè, va bene, dai, io l'ho acceso per vedere come andava. Ho provato, non mi voglio arrendere, capito? Ora il temporale che me l'aveva distrutto, qualche componente, oppure era qualche cosa che non andava. Ho controllato le manopole, ce n'era una, quella anche io, il circuito, sono andato in FM, e la commutazione tra l'FM e la M, e facevo un po' di CDC. Ce l'ho detto, quando ho deciso di aprirlo non aggiungava. Adesso guarda. Sembra finita l'una e mezza, mi dispiace l'antenna. Ma c'è un tipo che fa l'antenna, mi adesso che te lo chiamo per casa. La base è fissa, la devo pure io. E che antenna mi? Non lo so, decido. Ora io ho comprato una Superlem, è bellissima, c'ha tutto il fondo in acciaio. Dove incastra nel palo tutto in acciaio, le viti in acciaio, è bellissima con l'antenna, è come la manto, ma è uguale, c'ha radiali quelli lunghi. Sì, la conosco, c'era Danilo Pluto con l'antenna. Ah, Danilo? Pluto? Kappa. Non ho più sentito Danilo, che fine ha fatto? Sembra Castelsardo. Non è Castelsardo. Ma quello che burlava dalla veloce, sto dicendo io. No, Danilo Pluto è... Cosa? Ah. Vabbè, comunque è una bellissima antenna. Io... come struttura almeno, adesso la devo ancora provare, ma come struttura è molto fatta bene, è fatta proprio molto bene. C'ha la parte di sotto tutta d'acciaio, è bella grossa, un bel bollone come la mantova. Sì, magari si sono persi tra uno stile e l'altro, invece che mettere la bullonatura gli hanno messo viti, gli hanno messo due viti per stringere tra un elemento e l'altro, capito? Scusa, ho passato da Milo con me l'anno scorso, giù a Castelsardo, ho passato io e lui, il fratello. Ah, ho capito. Sì, sì, è una bella antenna. L'hai vista com'è, come è strutturata? Sì, è similare a Mantova, alla Mantova 1, Mantova 5, è similare, ma non funziona bene, dai. No, la Mantova 1 c'ha 4 radiali, è la Mantova 1 assolutamente. Già, non la prendo con l'antenna, guarda, non è perfetta, guarda. Sì, è che l'ho alzata tanto, ce l'ho un po' bassa, ma l'altro già è alto. Sì, c'è lo stesso, ha comprato il testo, va tranquillo. Che è la Puglia? Al vero, per fortuna. forse sta con la donna, dovrei farla tranquilla. La zona del mare per me è favorevole. Se risulta che si vede tutto qua, la tavola, la cinara, tutto qua. Ah no, c'è da lamentarti, vai tranquillo. E dove stai andando, Cristo? A dopo, è tutto a casa e poi avrò un lavoro. Eh? E allora, cosa stai facendo adesso? Che tipo di lavoro stai facendo? Fai l'asso. Ah, capito. Sempre saldano, faccio. Io non lo so facendo logicamente, quello che facevo da prima. Vabbè. Io per quello ho preso il diploma al professionale come saldatore elettrorossi a Cittilinico. E faccio quel tipo di lavoro lì. Però non ne sto più facendo perché poi ho trovato il lavoro a turismo, anche te sono andato lì a lavorare. Però prima era la Montubia, la Cile Montubia. Infatti è meglio fare lavoro sul smart, forse era meglio, guarda, perché trovi io che sta andando, oltretutto. Radiazione che non fidi, credi che sia una cosa... Marco Voltaico è una radiazione. Ma sei volta perché io voglio che la visa di porto per Milano? Sono tu che pure la soldatura e la pagata. Sì, ma è un bel lavoro, perché è costruttivo come lavoro. Io facevo tante cose. C'era il mio professore che aveva praticamente un'officina col suo succio. La mattina, quando il professore veniva a scuola, c'era il succio. La sera c'era lui. E portava il lavoro, lo portava a scuola. Si usava anche il materiale della scuola, tra l'altro, era molto furbo. Non pagava il materiale, si usava quello della scuola e ci faceva costruire le cose. Tipo scale a chiocciola, quante ne ho fatto? Una scala a chiocciola, un minuto. Ho fatto per una villa, poi cosa ti posso dire, radiatori di macchine, quelle lì era la cosa che mi dava più fastidio, le marmite e radiatori era una cosa più loca che c'è. Perché è costruttiva, puoi cambiare, non è che fai sempre la stessa cosa, hai capito? Poi usavo sia il carrello, facevo saldatura elettrica, poi usavo anche il carrello, usavamo anche il carrello a scuola. Preparavamo il pezzo, facevamo prima il disegno, poi lo preparavamo, ci davano la lima bastarda per portarlo a squadra e poi preparavamo i pezzi, capito? E non era facile, però a me mi appassionava, mi piaceva quel tipo di lavoro. Non so perché non è solo un lavoro monotono che fai. Cose sempre diverse, con cancelli, porte di particolari, un lavoro diverso, ho capito. Io ero anche molto bravo a scuola, avevo 9,5 ci avevo in applicazioni tecniche e in laboratorio. E praticamente poi c'era disegno, vabbè, le materie di studio, poi c'era il disegno, prima disegnavi, poi ti preparavi il pezzo e poi... E dopodiché lo portavi a termine, no? Arriva bastardo, ti facevi le bolle nelle mani di mano. Guarda, tutto sommato è un lavoro che a me è sempre piaciuto. Niente di aroma, è un lavoro che mi piace tutto. Bisogna stare attenti con le misure, con le cose, però è un lavoro che è costruttivo, capito? È costruttivo perché ti crei le cose da solo, te le fai come vuoi tu, capito? Tipo io avevo fatto tante cose, tipo i ferri per il camino, la pinza, il coso per girare il fuoco, la paletta, tutte cose lì le avevo fatte un amico mio, più la scritta famiglia eccetera eccetera per il cancello, e le avevo attaccate, le avevo saldate sopra il cancello, poi le avevo fatte tutti i ferri per il camino, io già stato un po' contento, tutti quelli scaldati, girati, ferri, lo sai come si fa in grezzo, e erano bellissimi, li ha sempre usati, ce li ha tuttora. Io faccio barbecue ogni tanto, ma una figlia tipo barbecue da 1,50 m, 2 m per 1 m, ma dipende, cosa non è qua qui in me. E anch'io graticolo, ne ho già fatto 1 m, graticolone di 10 anni. E non già ne ho fatte anch'io di queste cose qua, mi piaceva anche, solo che poi la Montubi ha fallito, poi lì in fabbrica era Citoflex, poi elettrodi basici, eccetera, eccetera. Devi saldare i tubi che ci stavi tu dentro, tutta un'altra cosa, moto saldatrice invece che saldatrice elettrica, era una moto saldatrice. Tutta una cosa diversa, comunque quando mi hanno fatto la prova sono passato e mi hanno preso, ma cosa ci sono stato? Pochi mesi e poi a farmi... Io sono vedere a saldatore, tubista. Era sei saldato. Sì, sì, sono andato anche bene, allora che piccoli tubi, lascia perdere, è un incubo. Ma la saldatura va? Sì, gli ho detto il magico, più o meno, da, quando sono stato il minimo, 8 mm, 10 mm, figurati. Vabbè, io saldavo anche la Lisa, che è un edificio da saldare, non so se tu l'hai mai saldato, però mio padre era calzolaio e ci aveva il piede, quello dove tu metti le scarpe per fare la tomaia e mettere i tacchi, eccetera, ce l'ha presente quel piede che c'hanno loro, però lì c'era caduto e te la c'era spaccato, io l'ho fatto appuntito dove c'era spaccato e l'ho riempito tutto ad ottone e ho fatto la salobrasatura. Sto così infatti, io sono anche l'acciaio se per quello. Ho fatto lavoro in acciaio anche amici io, molto spesso. No, acciaio non l'ho mai saldato, però dovrebbe essere difficile, dovrebbe essere tranquillo lo stesso. Ma i cordoni che facevo io riuscivo alla scoglia da sola, li facevo perfetti, beccavo sempre la corrente giusta, tutto qua. Il professore mi guardava sempre, mi diceva che ci mettevo molto impegno, ma perché mi piaceva? Cazzo, facevo quei radiatori che mi portavano saldatura stagno con carrello e stagno e poi ci dovevo mettere l'acido muriatico, cazzo, ma un fiato lo si può dire assai. E poi sono lui che voglio fare pure io, fidati, che non farò mai. Beh ragazzi, io chiudo, sono a casa e adesso faccio un attimo l'ufficio e ho trovato l'avvocato. E mettiti un'antenna, anche un'antennino tanto per parlare la sera, Cristian. Se lo sapevo potevo aver regalata io un'antenna. Mi sono stato una vera, tanto sul tetto, devo farmi un'antenna TV, devo mettere un positivo, poi io roba a casa del tetto, metto anche l'antenna. Con calma, la segnatura, faccio tutto. E io, infatti. Ma in fretta non ce ne vuole, io stamattina ho iniziato, cosa di bussi, sarà stato le 10. Fino a luna e mezza siamo stati sotto. Ma abbiamo fatto il lavoro, tolta una, messa l'altra, tutto tranquillo, pacifico, senza stare a stressarci, tranquillamente. Ci abbiamo preso anche il sole. Ma no, guarda, nel tetto c'è un saffone attaccato al muro che tiene a me, a te e a mio fratello appesi, figurati. L'avevamo messo a tuo fratello, così? Poi sono fatto una vera bella serie. Adesso voglio fare il lavoro a casa e mi rifarò con calma, piano piano. Ma aspetta, non ce n'è, però quando ti capita, ok, dai. Ragazzi, adesso andiamo più tardi, dai. Dai, devo andare per la mia compagna che sono già in ritardo. Ci sentiamo, raga. Statevi bene anche chi all'ascolto, dai. Ciao a tutti. Ciao a tutti, dai. Loro, si sarà un cambio, questo caso, ma facendo la spia ogni 3 o 4. 9.000 ora, purtroppo. Che perché non costa poco? No. Non scusa Giacomo, mi ha chiamato, non so che volevo. No, ma salutamelo. Yep. Hola, c'è qualcuno qua? Cicru canale 10, c'è qualcuno in ascolto? Cicru canale 10, c'è qualcuno in ascolto? Buonasera. Ui, come lo fai? E allora? Eia, sto provando un apparato già, l'Uranus che aveva Eugenio, nonostante sia stato già toccato, non 4 watt appena. Ma solo 4 watt? Positivo, pensavo, non dico assai, però prendendo la scheda tecnica a quanto pare ne poteva dare 7-8, ma non ce n'è traccia. L'avevano abbassato per usarlo con lineare magari. Vabbè, no, io non ne ho accessori del genere, dai, sono liscio, stavo guardata ieri, più che altro ci sono alcune funzioni che devo riuscire a capire, insomma. Non c'è manuale, l'unico che ho recuperato in rete è in tedesco, Bacari Zai. Traduttore, no? Praticamente sono dei. È un manuale praticamente che è stato scannerizzato e poi messo in PDF. L'ideale sarebbe riscriverle in un file di testo e poi provare a tradurlo con Google oppure con qualche altra applicazione, capito? Ho capito. Come sta andando la radio? La tua? E io. Va bene, la solita. Cosa hai combinato? No, perché nel giorno ho cambiato l'antenna, non ce l'ho più l'antenna. Troncata in due. Ah, ti ha mollato la Game Master? Ah, vabbè, si può aggiustare, ma io ho preferito cambiarla del tutto perché è già la seconda volta, l'ho aggiustata in un punto e si è rotta nell'altra adesso. Non è un'antenna molto affidabile, è stata a penzoloni. Tenuta dal filo centrale già per un bel po' di giorni perché non si poteva salire, che stava piovendo, grandinando. Cosa faccio, mi salvi così? Capisco, non era la situazione giusta. Poi la settimana scorsa quell'imbarriata di vento e di grandine è stata tosta, veramente ha gradinato forte. Cambiata l'hai già? Sì, claro. Cosa hai messo? Quella che hai detto? Ciao, prof. Sì, la Super Lem. Grazie, claro, se devi vedere, tutto è in acciaio è sotto la Super Lem. Quello che infila nel cubo è tutto in acciaio, il volume di in acciaio, l'ho fatta benissimo. Super Lem, no, non la conosco, non... ma è quella come la matto va con gli otto radiali, quella lì? No. Ecco, ma la matto va uno, come la quattro radiali, come la matto va uno, radiali lunghi, quelli lunghi. Quelli lunghi, i radiali sono quelli da misura, 1,60 sono. Quelli lunghi, sembrano, ma la misura è quella per il piano di massa. Ma è robusta come la Mantova oppure è più leggera com'è? No, è bella robusta, c'è un mollone grosso, è bella, claro. Sto dicendo che è una bella antenna. 1-1 di stazionare tutti i canali. Naturalmente quando l'abbiamo piazzata le stazionali erano alte, le abbiamo regolate, ma adesso sono 1-1 in tutti i canali. L'apparecchio come sta andando, il Galaxy? Yeah. adesso sei tu, numero uno di nuovo in radio, ma te l'ho detto, cioè non si può uscire in quelle condizioni. Mantena quando ne cade, soprattutto quella, magari il filo ha fatto danno all'interno e non è lì l'assemblea così. Adesso sei tu, il segnale è sempre il tuo, va bene, la radio è bella, chiara, pulita, senza problemi, e il segnale è il tuo. Andiamo a vedere, qui che c'è anche il numero Fettas, e tu la tua non ti è arrivata? No, già, sto soffrendo come il cane. Sto soffrendo, ieri è venuto Carlo a ritirarsi la sua, mi poteva tenere quella, ma io ho una parola, quindi quella l'avevo ordinata per lui, era già qua da un mese, ieri è venuto, se l'ha ritirata, adesso ci siamo sentiti ieri con il venditore, mi ha detto guarda, il materiale è già partito, penso che prima di Natale hai l'antenna, vabbè, cerca di darti una mossa perché la prossima volta cortesia non te ne faccio, io ce l'avevo già montata, che l'ho dovuto dare agli altri. Ti tocca sempre a te, magari chi si andava bene, boh, vabbè, si acquista. Si andava bene, cosa lui vuoi sembrare l'altra? A me mi è convenuto perché me la stanno rimandando nuova, io ce l'avevo già due mesi fuori alle intemperie, quindi a me me la stanno rimandando nuova. E cosa ci vuole sembrare con l'antenna? L'ho sembrata anche, gli ho l'altra già sembrata a Carlo, il pezzo deve mettere solo i radiali, deve infilare il centrale e basta, già tarata e tutto, già pronta a montare, così avevo. Si anneghisce tutti i danni. Ma cosa c'ha la taratura obbligatoria qua? C'ha gli elementi già che si inseriscono poi c'ha bullone? No, quella è tutta un'altra cosa, non c'è toccabile, devi tarare prima il c'ha tutti S1, SO2, S3, P1, P2, c'ha tutte le misure. Ci vuole un po' di tempo, però io mi sono già specializzato in quell'antenna, quindi mi ha chiamato anche quello di Cagliari, mi ha detto ma lo sub che c'è sulla J-Pol, sul direttore, come va messo? Guarda l'istruzione, gli ho detto come va messo, così al telefono così ti dico come va messo. Inserisci o poi mettiti lo strumento e controlla se la taratura. Di solito gli ho detto perlomeno quella che ho tarato io va a 2 metri e 10, 2 metri e 15 lo stub, poi vedi tu, ognuno ha le sue tarature, capito? Comunque una fesseria, montare anche quella è una fesseria, devi stare molto attento perché quella non è come la Mantova, no? Quella c'ha, quando metti l'innesto dei pezzi, diciamo, del centrale, c'ha il foro obbligatorio e metti la vittina e blocchi lo stilo e poi i fascetti, capito? Fatta bene con l'antenna, poi ma fatta veramente bene, c'ha tutte le barre in acciaio, tutta fatta bene. Comunque, Carlo è contentissimo, adesso domani vado a montare le antenne a Roberto. Abbiamo una squadra per montare le antenne Roberto, poi si vedrà se in settimana mi chiama Carlo, vado gliela piazzo anche a lui. Ehi, stai fischiando, dimmi, cosa c'è, vuoi entrare? Fruscia di Gorri, riprendi o Gianni lo bluffè? Ehi, no, era per sentire, sono entrato così a gamba tesa, no, sentito Gianni. Come giusto un controllino, ora porta il segnale con questa radiolina già. Tante d'oro. Già, io ti saluto, non ho tempo da perdere con i coglioni di turno. Ciao, ci sentiamo alle prossime, auguri per la nuova antenna. Grazie, grazie. Ciao Claudio, dai, e anche io chiudo, dai, devo fare roba qua, dai. Ciao Gianni, ci sentiamo, buonasera. Ciao ragazzi, ciao Claudio, ciao Gianni, dai, alle prossime, dai. Scusa Gian, ma c'è una portante che ti copre, quindi non ho voglia di stare a rompermi le palle, come vecchi tempi, ciao ciao. Ciao ciao. Andavex, Andavex. Avanti, che è? Che è? E' me, fra. Che è, Gianni, sì. Eia. Cazzo, mi ha segnare già. Ui, aspetta che ti attenuo. 9.60, sì. Sì, da attaccati, fra. Mamma mia, quando fate questi controlli, a me mi fate solo adirare, cazzo. Vabbè, vicino lui, capito, vicino a me, quindi è un casino. È lontananza, prova. Qua c'è lo stesso segnale della, della Game Master, uguale, preciso, identico. Ma infatti, vabbè. E non cambia niente, mica è sempre uguale il segnale, l'antenna è sempre così, non è che cambia. Devi giambare, l'antenna è nuova, devi giambare. Se magari mettevamo 780, allora magari il segnale cambiava qua. Ma 5 ottavi, 5 ottavi, l'antenna sempre lì, insomma. Segnale quello di Gianni, bello, 9.15 e radio Super 5. Beh, ti saluto, c'è l'importante a me fare così in radio, ma ne faccio in, in modo amatoriale. Ciao Fra. Ciao Claudio, ciao ciao. Franco, ho visto che l'ho messo a posto il gas. Già lo so, e cosa era? Se te lo dico mi ammazzo. Senza antenna? No. C'era il commutatore delle frequenze che era spostato al centro tra una frequenza e l'altra e non prendeva bene le prese. Come io ho mosso quello lì, l'ho rimesso in AM, bene, ha fatto lo scatto. Come ha fatto lo scatto ha funzionato bene. È copiato. Fra! Ho detto, l'hai risolto il problema di quella roba lì. E te lo sto spiegando, gli sei andato. Te l'ho detto cos'era. Il commutatore delle frequenze era spostato al centro. Non aveva fatto lo scatto ed era in mezzo tra AM e FM. Ah, ecco, ho capito, sì, sì. Per no, stavo commutando con l'altra radio, ho capito. Tutto qua. Stavo... avevo l'altra, adesso sono passato con questa. Come sto uscendo? Prova a Torino. 1, 2, 3, prova di modulazione. 9.30, sì. Io quanto ti arrivo tu? Sono scala, sì. E ho messo il PL, l'ho provato col paracopolo. Dunque, ultimo, sì. Franco, da te. Allora, qua sì, 9.30 lo stesso, 9.25, 9.30. L'ho stato un me. Tutta la giura giù fatta, ma carità, la canna per città. Perché sei scemo, te l'hanno detto. Sei tu che ti vuoi dare la zappa ai piedi. Te l'abbiamo detto che eravamo disponibili, aiutarti. No, puoi disturbare nessuno, ce la faccio, capito? Non preoccuparti, un po' di sforzi. Vabbè, bella giornata, eh. Il più casino già cos'era. Quando sollevavo devo mettere il bullone passante. Cazzo, è casino. E vabbè, ce l'abbiamo fatta. Ho messo i tiranti. Domani metto qualche altro. Ma l'hai anche alzata? Sì. Cazzo, non ti avessi venduto tutto tu? Ciao Cla, eh? Non ti avevi venduto tutto, mi avevi detto. Certo, ho venduto tutto. Io ho usato Baracoco Midland, l'ala 68. Va bene, va bene. Mi ascolti bene, sì? Tappa 9.20 c'è qua. Siamo vicini, anche tu c'hai un ottimo segnale. Siamo vicini, io sono sulla sera secca alta. Va bene, va bene. Ok, Tony, dai, ti saluto, rimango in quella X-Folk, faccio una portante, a me quando sono portanti no, non c'ho tempo da perdere. Ecco, le registro portante, adesso. Sì, quasi sul 3, comunque, qua. Ottimo, come radio e come segnale. Niente, ho messo un palo come si deve, non al centro, diciamo, perché in questa casa non c'ho più la mia padrona di casa, ma c'ho il fratello mi ha detto, no, l'antenna al centro, no, che fa male, la metti qua vicino al cancello. Quindi ho fatto un pinto e ho affollato il tubo dentro le blocchetti e ci ho messo 2 quintali e mezzo di calcetto, tutto va bene, qua. Penso proprio di sì, ma perché non sei più in quella dove eri prima la casa, hai cambiato? No, sono sempre qua, ma io volevo mettere al centro dove ci quella bello di limone che non cresce un cacchio, vuole mettere il palo lì della testa, oh che sta male, che sfigura, e mettila qua vicino al cancello, e così ho fatto pazienza. Ma avevi detto, sì, ne avevamo parlato che volevi metterla lì, lì viene un bel lavoro, perché al centro metti, tiri su bene il palo alto e ci mettono i 4 tiranti sopra, capito, viene un bel lavoro, vabbè, ho già arrivato una di gas a comanda niente, purtroppo. Vabbè, comunque. Niente, non ho avuto disturbare nessuno, la verità. Ho avuto a fare tutto da solo, adesso ce la faccio, questo è mio, sto meglio adesso. Certo, se non mi ero operato, ero incasinato. Con questi lavori non avrei mica fatto. Sono soddisfatto di quello che ho fatto. Va veramente bene. Avanti, già. Sono potuto andare a fare il piccolo, ho fatto Tony. Doveva venire il muratore con l'aiutante, invece si è truccato il bordo con la moto, rimani. E no, ed è venuto da solo, siccome dovevamo fare degli scavi per mettere dei tubi. Ho dato una mano io, cazzo, gioco a pezzi gioco. Me la posso immaginare. Niente, io con la zappa, con la pala, ho comprato una carriola, mi facevo un impasto lì, mettiamo un sacchetto di 5 kg di ghiaia, un sacchetto di sabbia, un sacchetto di cemento, un casino bello grasso. Ci ho fatto 3 giri, sono due pietane e mezzo di calcetruzzo a voglia, più il ferro che ho messo. Ma io penso che non andrà più all'uovo. No, beh, se è fatto così no, non va da nessuna parte, no, già va bene. Sono affiancato, ma madonna, poi il terreno è molto duro qua, sembrava morbido, ma invece è torcio, e so capisci. Va bene ragazzi, dai, continuate, proseguite, io rimango un po' in quel ric, se mi sto rilassando, semmai ci sentiamo dopo, piacere averti riascoltato, Tony, deprende e fai girare. Venga, d'accordo, buon quel ric, allora. Gianni o Franco, ti perdete. Un attimo, Tony, sto prendendo una cosetta, mettendo dei piedini, dai. Tony, la stazionale come sono? Da me? Sì, io. Allora, siamo al centro, sai? E a te manco si muove lo sbitere, manco ora uno arriva. Già, ti hai fatto l'antenna? Sì, sì, l'ho piazzata. Io sono arrivato a Sassari, da Olbia, alle... Credo, le 3:30 quasi. E noi a 1:30 avevamo finito tutto. Mi sono trovato con Stefano, là, ci siamo presi l'aperitivo e poi me ne sono rientrato. E poi mi ha chiamato Ginko per riparare una casa, là. Mi sono arrivato a casa alle 4:10. Ciao, perfetto. Vabbè, io me ne stavo andando, dai, ti saluto. Vabbè, non fa niente, ci siamo arrangiati lo stesso. Anche se è salito un po', ci siamo sforzati tutti. Vabbè, in due venivamo in tre, ma già ce l'abbiamo fatta lo stesso, interessante qui. Vabbè, là, già c'ho la glicemia bassa, 69. È un numero che mi piace a me quello. Anche a me, però è bassa. È bassa... ma... diciamo che sì, è un po' bassa, sicuramente hai bisogno di un po' di zucchini, quindi mangiati qualche cosa di dolce, una frutta, una cosa, e già ti si rimette a posto. E poi ho mangiato, verso le 3 mi sono mangiato una stellatina con prosciutto, e poi poco mi sono mangiato due merendine, cioè due sfoglie, quello con cioccolato dentro, e una merendina, cazzo, mi dozzi di così. E allora fatti controllare, perché c'è anche il diabete ipoglicemico, quello praticamente che invece che alzarsi si abbassa la glicemia, e devi mangiare una pasta, qualche cosa a metà mattinata, perché la mia collega sveniva, se non mangiava qualche cosa verso le 9:30 doveva fermarsi, mangiarsi una pasta e poi riprende, se no sveniva. Vabbè, dai, il resto che dobbiamo uscire già, a dopo, a domani, ciao. Ciao, comunque, come mi ascolti? Come sempre, stazionale come ce li hai? Nemmeno uno e uno. Sì, su, vabbè, non tocchiare adesso, vabbè. Comunque, sai che sei sul 3, sullo 0. Già va bene, allora, sta andando bene. Va bene, è tutta quanta un acciaio sotto, dove entrare il cubo, tutto acciaio, bellissima quell'antenna, fatta benissimo. E l'altra già ce l'hai buttata? No, l'ho regalata. Ah, ok, là, va bene. D'accordo, dai, che mi presto, ciao. Ciao. Io vi saluto a tutti, dai, che devo fare roba qua. Devo pacchettare un po' di regali. Si comincia. Dai, ma ve ne ascolto io. Ciao Torino, ciao Franco, ciao Claudio, tutti gli altri amici che sono in ascolto, un profeta, e via dicendo. Ciao. Sicuro 10? Zebra 1 centrale, cambio. Zebra 1 centrale, cambio. Hola. Tutti morti. Attento Giulio, canale 10, dollaro. Attenzione Giulio. Yeah. Hola. buonasera, non ti sento bene, chi sei? Sono nuovo di frequenza. Sei nuovo? K. Hai nome? Ebbè ancora no, dovrò farmelo qualche nome. Come ti possiamo chiamare? E tu invece hai qualche nome? Sono Francesco, Franco, dai. Franco, va, passa da Franco, io sono nuovo in frequenza, vorrei imparare un po', qualche cosa ci ha. Io invece sono in macchina, sono arrivato a casa invece, ti devo anche salutare. Molto, dove abiti? Che zona? Aspetta, che parcheggio. Adesso sono zona Sacro Cuore. K, arrivi bene qua, E dove sei tu? E io sono zona periferia, dai, zona Monte Oro, Canega. Aspetta, non vedo il segnale perché ho l'apparato proprio, come si dice, dalla parte opposta, non dalla parte guidatore, dai. Comunque c'è un bel segnale, non lo senti qua. Aspetta che ti controllo, dove c'era un tastino. Prova. 1, 2, 3, 1, 2, 3. E anche tu sei sul 9 qua, ma conta che questo switcher è un po' avaro. Vabbè, ma io ho un'antenna, e questa antenna è un po' vecchiosa, e sta funzionando male, però ancora va bene, dai. Hai i picchi positivi, quindi dai, qualcosa di buono ce l'hai. Che antenna è, perché? Che è una 5 ottavi, cos'è? No, è una Mantova vecchia, ci mancano due radiali, e sta andando ancora. E quindi una 5 ottavi, caspita, la Mantova era ed è tutt'oggi una buona antenna, Anch'io ne ho una vecchia da sistemare, però si è tutta ossidata, non riesco più a separare gli elementi. Quello, infatti questa è stato il problema qua. È molto vecchia, ha più di 40 anni, e quindi è così, capito? Si è un po' tutta ossidata e sono caduti due radiali a causa delle cornacchie, c'erano 4-5 cornacchie, anche tutte si sono rotte, anche il mondo è rotto. Insomma, ma comunque anche con pochi radiali la Mantova funziona lo stesso. Li puoi ricostruire in alluminio, però devi cambiare la misura, devi farli da 2,75 vogliono, perché quelli in vetroresina sono spiralati dentro, c'è l'avvolgimento, dai. Infatti, no, vabbè, si poteva fare qualche modifica, nel senso che col trampo, non facendo di scuro, eccetera, ci avevo provato, però niente da fare, proprio le cornacchie, ma smantellato, ha sradicato proprio